mattina, incomincio dalle 10. 29.7 io. Bastante coglioni! Se tua madre è una bagasse, capito? Coglioni! Per attaccare il telefono perché ti piombo di telefonare. Detto questo, dabbi in culo. Continua, che domani già ne dorme tua madre. Rispondi a tua madre al telefono, eh? Cos'è? Paura che ti mandano i carabinieri?